sicuramente sono una grande attrice perché, insomma, sono 12 anni che comunque lavoro e non si è ancora capito se ci sono o se ci faccio, quindi, insomma, più attrice di me. La Zanzara. S'approcio, embe, perché c'è da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio, embe, e che ce passo fa? Son libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure vogliamo davvero ritornare ai tempi in cui la gente come me prendeva il mare, spediti in esilio su quell'isola lontana, nel nome della virilità italiana. Sua eminenza che è un gravissimo peccato e che dovresti senza. Non ha detto solo che è un gravissimo peccato, sua eminenza, il Papa, oggi, a proposito del matrimonio gay. Caro Parenzo, non ha detto solo questo, il Papa, lo sai, no? Dice che le nozze gay sono una ferita alla pace. Tra l'altro lo sai, siamo buona compagnia. Scusa, ma cosa diavolo c'entra? E uso la parola diavolo apposta. Cosa diavolo c'entra la pace con il matrimonio gay? Se mi posso permettere, sua santità? O no? Guarda, è una giornata tremenda, è una giornata sconvolgente. Ma ti hanno sconvolto o no queste notizie che vengono dal Vaticano e dal Pirellone? Fra poco ne parleremo, dal Pirellone. Ecco, mi sconvolgono di più quelle del Vaticano, quelle del Pirellone, cosa vuoi? Pirellone lì sono... Beh no, quelle del Pontefice sono anche scontate, se vuoi. Quelle del Pirellone ti fanno incazzare. Quelle fanno incazzare, ovvio, ma quelle del Pontefice, del Sommo Pontefice... È un'offesa contro la verità, dice, contro la verità. No, ma questa idea della nozze gay, una ferita alla pace, impossibile tollerare l'aborto e anche l'eutanasia. Pontefice, amico mio. Ferita alla giustizia, alla pace, un'offesa contro la verità. D'altra parte, che contro... deve dire? Sì, che uno potrebbe dire, appunto, è il Papa, no? È il Papa. Non è il presidente dell'associazione. Senti a chi lo paragona la signora Concia, PD, addirittura un personaggio da noi molto conosciuto. Più volte scandagliato. Se non fosse che lo dice il Papa, che è stato il Papa, potrebbe sembrare una battuta di Scilipoti e Giovanardi, i quali, come è noto, fanno becera e volgare propaganda. Alla fine il paragone l'ha fatto, paragonato, sì, Papa. Però sì. Io vorrei ricordare due uscite. Una, appunto, di Scili, che oggi è il 14 dicembre, tra l'altro festeggia un anno dall'appoggio a Berlusconi, se non erro. Sì, che non c'è più Berlusconi, peraltro, quindi... Se non erro. Il diritto, scusi, di quello che si trova geneticamente donna e invece esternamente maschio, perché c'è stato un capriccio della natura, è diverso dal diritto di quello che ha un gusto sessuale diverso dal mio, e quel gusto sessuale non può compromettere. Omosessuali come capriccio della natura, disse Scilipoti, ma anche Casini, lontano certo mille miglia dal signor Scilipoti, lontano chilometri e chilometri, ebbe a dire: ma ritengo che il matrimonio tra gay è una idea profondamente incivile, non civile, non di frontiera di progresso. Si dice che lo sia, tanti non lo sanno, non ne vanno sapere niente, perché hanno paura del giudizio della gente. Altri che lo fanno non lo vanno a sapere. E vabbè, siamo messi così. 800 24 00 24. Ma Casini è lo stesso leader cattolico divorziato con due famiglie, con figli un po' di qua, sì, un po' di sì, là. Sì, è sì, lo stesso, sì, Casini. Sì, è lo stesso. No, lo stesso. Forse non è lo stesso, non è possibile. È lo stesso. Non è possibile. Di Pietro, ieri sera a... dov'era, no? Da Santoro, no? Vabbè, ho vabbè. Sentito Cicchitto su Monti, poi hai litigato vabbè, con... Vabbè, sentito Cicchitto, su Monti, no, dai, valore, Cicchitto su Monti. L'altro giorno ho sentito parlare Cicchitto che sfiduciava il governo Monti, dico io, ma questo si chiama Di Pietro, ma... Era uguale a quello che ho detto io da un anno, soltanto cioè, fino al giorno prima. Lei guardava Cicchitto e vedeva Di Pietro, diciamo. E non sono mica così scemo. Ovviamente Scilipoti era 2 anni fa, Soddisfare qualunque voglia, questo è ciò che vorrei. Un duro nero e nero il futuro. Ma quanto siamo incazzati, cari ascoltatori della Zanzara, per quello che esce fuori dal pirellone, se tutto sarà confermato, se tutto sarà confermato. 40 indagati, rimborsi folli. Praticamente con i soldi nostri, con quelli che voi in questo momento avete nelle tasche e avete dato senza il vostro consenso alla Regione Lombardia, certo, ai gruppi consigliari della Lombardia, senza il vostro consenso, perché il finanziamento pubblico era stato abolito, con i soldi che voi conservate nelle tasche senza il vostro consenso. Bravo. Sono stati dati illegalmente alla Regione Lombardia, anzi no, legalmente dal punto di vista formale, ma senza il vostro consenso. Prendevano cartucce per andare a caccia, vi rendete conto o no? Salsicce, cappuccini, caffè, iPad, pure un libro, il libro sulla mignottocrazia scritto da Guzzanti. L'hanno messo in conto alla regione, 16 euro, la signora Minetti, che può prendere qualsiasi denaro da Berlusconi, mette sul conto 16 euro per il libro di Guzzanti, vi rendete conto o no? La cosa più sconvolgente è che hanno messo in conto pure le ricevute del McDonald's col menù bambini, il menù bambini, siete degli straccioni, siete quattro straccioni, perché se uno mette in conto i rimborsi del menù baby del McDonald's, che costerà 3 euro, sono quattro straccioni. Tutti i dettagli nel corso di questa trasmissione, 800 24 00 24. Voglio sapere quanto è sconvolto da questa notizia Paolo Guzzanti. Buonasera. Ciao, buonasera. Io sono al di là dello sconvolgimento, sono talmente sbalordito che dovrei dire mi viene da ridere, ma non mi viene da ridere. Potrei suggerire la risata, ma sarebbe una risata carnivora. Perché quando ho saputo che la signorina Minetti ha messo in conto una copia del mio libro alla Regione Lombardia, cioè il libro, non importa che si tratti di soli 16 euro, è il principio, insomma, così come ha comprato sostanzialmente la sua autobiografia, un po', o no? Sì, non è soltanto la sua, no, è una autobiografia multipla di un'intera. Però... è una delle protagoniste, diciamo. No? Però io già mi ricordo che quando uscì questo libro ci furono delle intercettazioni di questa signorina, la quale una volta diceva che era in libreria e che c'era suo padre che aveva preso il mio libro in mano, lo sfogliava, era arrivata alle pagine che la riguardavano e lei era arrossita, poverina, vedendo il suo papà. Ecco, ma lei potrebbe sostenere di averlo comprato per lavoro, secondo lei, Guzzanti? Oppure è una follia? Insomma, è una follia o no mettere 16 euro? Perché è una piccola cosa, ma è un sintomo, è una... Cioè, poi ci sono cose molto più gravi, naturalmente, ma sembra. Certo, è simbolico, no? La ferita è simbolica. Ecco, ma uno potrebbe anche sostenere di averlo comprato per lavoro. Per aggiornamento professionale. O no? Forse aggiornamento professionale. Beh, non lo so, possiamo dire che la riguardava da un punto di vista politico. Che sì, quindi, ma compratelo coi soldi tuoi. Compratelo coi soldi tuoi, no? È su. Ma certo, insomma, non mi sono mai sognato di fare queste cose, e c'è una categoria di persone che evidentemente pensa di poter accollare pure le proprie mutande agli altri, pure i propri calzini, i cappuccini, il dentifricio e non so cos'altro, e questo denota un costume che è spavaldamente, arrogantemente... aiutami te, ecco, per carità, no, però Paolo il problema è uno solo, perché adesso questa inchiesta è sulla maggioranza o ex maggioranza al Pirellone, non sappiamo gli altri gruppi, probabilmente anche altri gruppi facevano spese di questo tipo, però tu che sei stato e sei ancora, adesso non lo so, te lo chiederò, vicino, sei stato nel PDL eccetera eccetera, non ti vergogni un po' di tutto quello che sta uscendo anche per lo spreco? Ma certo, devo dire, e di essere stato anche, non da oggi, del resto io mi sono vergognato uscendo proprio quando ci furono queste cose imbarazzanti, prima con Putin e poi queste altre. E poi sei rientrato, però. No, io non sono mai rientrato nel PDL. Io, quanto dopo aver votato la sfiducia il 14. Poi hai votato la fiducia. Di 2 anni fa, ma per un motivo contingente, cioè che non c'era nulla dietro. E allora sembrava che il solo abbattere Berlusconi momentaneamente fosse la soluzione dei problemi. Io questo non lo pensavo, sono felicissimo di avere votato, io sto votando la fiducia a Monti dopo che il PDL ha decretato. Oggi sei per Monti? Ma io voto per Monti per motivi... Ma voteresti per Monti anche nel 2013 se si presentasse? Io sì, assolutamente. Sì, eh? Sì. Non per il cavaliere. Sì, molto più affidabile lui. Non so voi di che opinione siete, ma io penso che Monti è l'unico che dia la speranza di un'Italia liberale, sì, e ordinata, in cui si castigano dei vizi che sono di tutti quanti, non solo della classe politica. Naturalmente con molto più affidabile lui di Berlusconi in questo momento. Non ne parliamo neppure. Del resto Berlusconi, che non è affatto sciocco, dopo avere pensato... Però è allo sbando, Guzzanti, mi sembra allo sbando. Lui procede per tentativi, errori macroscopici e correzioni, sì, finché può. Lui ci ha provato, ha cercato di rimettere insieme i pezzi che una volta teneva tutti raccolti come se lui fosse il magnete. Ho visto che il magnete non teneva più, non fosse altro. È andato in Europa, ha fatto una figura barbina. È andato in Europa, però lui ha avuto la furbizia un giorno prima, sì, che gli facessero fare la figura barbina, di candidare Monti. Ho capito, però tutti hanno capito che è una furbizia, però l'hanno capito tutti. La politica poi è fatta anche di furbizia, è vero, sì. Fatta di astuzia. Ma non ti fa un po' tristezza in questo periodo Berlusconi a te? Sì, io devo anche dire, lo dico spudoratamente, sì, che a modo mio, tanto lo conosco, non dico capisco, ma insomma lo intuisco umanamente, come figura anche drammatica, e poi un giorno forse bisogna... che mi fa una pena e un senso di affetto umano. Io so che dire provo un affetto per Berlusconi, cioè, la sua di più impopolare, no? Sì. Però mi fa tenerezza quando vedo come una persona talmente fuori... esatto, come una persona un po' malata. Lui ha una deformazione che non so se è genetica. Lui, poveretto, è ancora affetto da una sindrome per cui crede che a lui tu sia tutto concesso, e qualsiasi cosa lui dica, per questo lui tutti lo amano. E sta scontrando, come si chiama questa roba qua, tenera età, col fatto che non è vero, che come è una cazzata. Come si dice, come si chiama questa cosa qua dal punto di vista... È un caso psichiatrico, dici tu, da questo punto di vista? No, non mi avventuro a dire psichiatrico, che non sono inutilmente offensivo. Diciamo che è un distaccamento dalla realtà, è come il distaccamento della retina, per cui tu non vedi più quello che sta davanti ai tuoi occhi. Ho capito, il distaccamento della realtà che ti impedisce di vedere come stanno le cose. Avere tanti soldi, che gioia, senza problemi. Guzzanti, lei si ricandida? No, se Monti si facesse la scelta di scendere in campo, quello sarebbe l'unico settore in cui non dovrei candidarmi, dovrebbero propormi una candidatura. Comunque lì mi interesserebbe, saprei di poter fare qualcosa. Altrimenti no, cioè con Berlusconi in una Forza Italia no. No, francamente non. Semmai si farà questa cosa, semmai si farà. Comunque qualcuno ha parlato. Non credo che si faccia. Qualcuno ha parlato di delirio di onnipotenza a proposito di Berlusconi, cioè invece distaccamento dalla realtà mi sembra più preciso. O sbaglio? Secondo me sì, perché lui non è... Un attimo solo, un attimo, adesso le passo la Minetti. Sta leggendo il libro. Pronto? Nicole? Sì, chi parla? Sono Cruciani, ciao. Ciao. Ti posso passare Guzzanti? Sì. Guzzanti, hai comprato il libro a carico nostro? Nicole? Dimmi tutto, amore mio, dimmi. Dico, ti posso passare Guzzanti, Paolo Guzzanti? Cosa vuol dire di Guzzanti? Hai comprato il libro, 16 euro, l'hai messo a carico nostro, sto libro. Non so, che vuole 16 euro, dimmi, cosa che volete. Paolo, digli qualcosa, Paolo. Ho sentito molto male, ma non so che dire. No, io ricordo di aver letto delle graziose intercettazioni dopo il libro in cui... Ma chiedigli perché ha comprato il libro e l'ha messo a carico nostro, scusa. Nicole, io glielo devo chiedere, ha abbassato il telefono. No, è una curiosità, comunque ce l'abbiamo tutti, io sono anche lusingato per una copia in più, però non mi pareva il caso di mettere a debito del contribuente lombardo. No, hai capito, ma lei ha abbassato il telefono adesso perché ovviamente... perché ho capito, non le piaceva la conversazione, però non c'è solamente i 16 euro che riguardano la Minetti, 832 euro per un aperitivo all'Hotel Principe di Savoia, 400 euro per una cena da Giannino, un iPad 750 euro nonostante la Regione Lombardia ne avesse già dato uno l'ha messo a carico, beh certo, come avere una serie carico, una 800, 899 euro dell'iPhone. Vabbè, poi magari il pranzo dal McDonald's per i bambini. No, questo lei non c'entra, altri. Non lei. Questo altri. Ma ti rendi conto? Ma sono degli straccioni. Sì, sono degli... se tutto venisse confermato sono degli straccioni. Cioè, neppure io che sono, come dire, attaccato e do valore al denaro, mi sognerei di mettere mai in nota spese il pranzo del McDonald's di un bambino. Dai. Vabbè, è così. Ma secondo te quale potrebbe essere stato l'incontro tra Berlusconi e la Merkel? Tu che imiti bene Berlusconi? L'incontro tra me stesso e le cancelliere tedesche, non capisco la domanda, caro Cruciani, cosa intende? No, scusi, com'è stato questo incontro l'altro giorno a Bruxelles con la Merkel, Presidente? Non ci siamo visti, perché appena sono entrato la colonna inchiamabile è fuggita e io gridavo dove è la colonna inchiamabile, e si è nascosta dietro questa grande colonna, ma si vedeva ancora l'agoma di questo suo imponente deretano, che era chiaramente un'offesa anche allo spread, che dicono che sono stato io a farlo salire, ma in realtà è lei che lo larga. Però scusi un attimo, Presidente, c'è un problema fondamentale, che lì la Merkel l'ha un po' emarginata, cioè, hanno chiamato Monti apposta per tenerla un po', no, in disparte, o sbaglio? Cominciamo con dire che Mario Monti me lo sono inventato io quando ho fatto commissario assoluto in Europa, e poi lui ha inventato la Merkel, la Merkel ha inventato Monti, tutti e due si sono rivoltati contro di me, e mi sembra che questo sia un esercizio di ingratitudine, ma oggi ci passo volentieri sopra e dico che è il mio successore o anche il mio nemico, dipende un po' come mi sveglio la mattina. Va bene, grazie Presidente. Allora Guzzanti, ha sentito Berlusconi, io volevo capire una cosa però, Guzzanti, non le pare un po' disperato, ecco, il Cavaliere, proprio all'ultima battaglia ormai, cioè all'ultimi... proprio alle ultime gocce di sangue, adesso per usare proprio un termine così guerresco. Ma io non mi sento, come al solito, di infierire. Lui ha fatto storicamente un lavoro importante, che è stato dare una patria a tutta quell'Italia che non vuole votare a sinistra, che io non chiamo di destra perché è liberale, leghista, ex neofascista, cioè di tutto, qualunquismo, eccetera. E ne ha fatto un protagonista della scena politica italiana. Questo gli ha dato atto di questo grande lavoro. Poi ha fallito in tutte le riforme. No, ma oggi non è un po' questo continua, cioè questo dire faccio da parte, poi no, poi no. Cioè, sembra un po' un segno di c'è anche molta tattica. Molta tattica, molta tattica. Sì, perché lui è un grande giocatore. Vuole continuare un po' a dare le carte, vuole continuare a dare le carte. E poi sorprende, spiazza, spariglia. Capito, un giorno prova con la Lega, vede che quelli gli danno buca, allora lui in realtà voleva fin da piccolo che qualcun altro lui provò con Mario Segni, facesse questo lavoro e oggi prova con Monti perché poi lui ha anche sì, ma Monti non lo vuole età, Monti insomma. Non lo vuole Berlusconi, questo è il punto. Monti non vuole, no, però Monti potrebbe, e credo che su questo prendersi gli elettori certo, potrebbe. Però sei d'accordo, scusa che devo chiudere, sei d'accordo che chi tocca oggi Berlusconi un po' muore? No, politicamente no, è un politicamente un po', si sputtana un po' oggi chi si allea a Berlusconi. Ah sì, forse chi si allea, però si sputtana un po'. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio intanto giardino. Scilipoti minaccia: se non vengo rieletto torno a fare il medico. C'è un consigliere regionale della Lega, di cui fra poco rivelerò il nome, ecco, il quale ha comprato, sono sempre accuse, e però ha comprato Lecca Lecca, Gratta e Vinci, cartucce per la caccia, lemon soda, pizzette, cannoli, ciambelle, torta sbrisolona, zucchero semolato, farina, salsicce, cracker, biscotti, frutta e ortaggi, eppure ostriche. Ma che mondo Beh, un editorialino di Parenzo ci sta tutto prima dei titoli del TG3 su questa vicenda, eh? Beh, cari amici, consiglieri regionali, e con i nostri soldi avete in questi anni amabilmente fatto la spesa e comprato lecca lecca per i vostri figli, oppure dell'ottimo culatello, oppure peggio ancora avete portato i vostri bambini dal McDonald's e vi siete fatti rimborsare i 3 euro del maledetto cheeseburger che rimane pure sullo stomaco dei vostri adorati bambini. Beh, cari amici, di fronte a tutto questo il popolo della Zanzara vi dice solo due parole: siete straccioni, siete straccioni, siete straccioni. Titolo del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Nuova bufera alla Regione Lombardia, 60 consiglieri indagati per lo scandalo rimborsi, spese pazze anche per Minetti e Renzo Bossi. Molti sul sostegno di leader europei, sono opinioni, bisogna abituarsi, ma non è il momento di decisioni. Berlusconi, guidi lui la coalizione dei moderati. Il PD frena sulla candidatura del professore, D'Alema, discutibile un suo impegno. Casini, una lista Monti-Berlusconi è come dire che un UFO atterra Montecitorio. Napolitano agli ambasciatori, nessun allarme per le tensioni sul governo, questo passaggio sarà superato. Il prossimo governo rispetterà gli impegni europei. Debito pubblico record, per la prima volta oltre quota 2.000 miliardi, ma crescono anche le entrate del fisco. Camusso, la politica del rigore non funziona. 11 anni al poliziotto che pedinava la giornalista, sempre più evidente il complotto, ma è ancora tabù sui mandanti, come denuncia la famiglia. Nuova perturbazione investe il nord, imbiancate Torino e Milano, bufera a Genova, voli cancellati in molti aeroporti, 1.000 chilometri di autostrade sotto la neve. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura. Secondo me nello scontro ieri sera a servizio pubblico tra Abete e Di Pietro ha trionfato il signor Abete. Questa è la mia modesta opinione. Che ha detto? Di Pietro sembrava una sorta di ossesso, ormai in difetto di voti, in calo di popolarità, cerca di recitare la parte dello sfascia carrozze contro tutto e tutti. Sentiamo. Beh, è difficile parlare di economia se uno vuole non legge i documenti. Sì, se no, vi ho spiegato, ma spiegato non fare il ragioniere, ma che ragioniere, ma non fare il ragioniere, che ti c'è una questione di scelta politica, cioè, i soldi li potevi prendere mettendo una bella patrimoniale ai grandi patrimoni, alle grandi speculazioni, e a quelli andava fatto, non andava fatto lì. Ma allora perché l'avete fatto? Allora perché ne avete fatto una cosa fatta bene? Ha fatto una fregatura, ha fatto, lo sapevo fare pure io a prendere i soldi dove non potevo. Ma che cosa dici? Fa il professore, che cazzo è professore? È difficile. Allora su questo devo dire, l'avevo visto più scatenato in un'altra fase della trasmissione. Effettivamente diceva, ma che cazzo di professore fa? I soldi li potevo prendere io dalle tasche degli italiani, da quelli che hanno lo stipendio fisso, da quelli che hanno la casa con l'IMU, cioè questo vuole dire Di Pietro. Ma non ha tutti i soldi su questo? No, assolutamente. Ancora. Non si può fare un dibattito sui contenuti se uno poi dice non sono contenuti questi, ma cerca di capire, non sono contenuti, ma non è cerco di capire, sì, abbi pazienza. Posso? Tu non puoi pretendere, non puoi pretendere di dire che i soldi li deve prendere nel modo più facile del tempo. Ma chi l'ha detto questo? Hai capito? Ma tu lo stai dicendo? Mi spieghi che cavolo ci dobbiamo fare con 130 euro di compartimento noi, quando ci stanno la gente che hanno lo stato sociale, che stanno chiudendo? Ma vi rendete conto di cosa state combinando? Ma che vi rendete conto? Ma che cosa stai dicendo? Ma come, che cosa stai dicendo? Tu non puoi dire che siccome sei imprenditore ci capisci. Capisci i cazzi tuoi, ma non quelli del paese. Capisci i cazzi tuoi, ma non quelli del paese, straordinario. E poi sugli imprenditori, che pagano le mazzette, qui è successo il patatrac. I veri imprenditori sono quelli che pagano le tasse, non quelli che pagano le mazzette. Come le pagano tutti gli imprenditori? Ma io ce l'ho mangiato. E non me lo dire. Non se lo offeso. Sai, l'hai detto che lo sai. Perché lo dici? Per fare con il populismo. Perché ti sto è populista dicendo. Quello. Sei populista te. È populista quest'altro. E fate tutti i populisti. Non è populismo, perché purtroppo il sistema delle imprese in questi ultimi 30 anni. Ti prego per cortesia, Antonio. In questi ultimi 30 anni il sistema delle imprese ha fallito per una sola ragione. Perché non è quello più bravo che è andato avanti, ma che è quello che è stato più. Ha corrotto di più. Senti, che ha pagato più mazzette. Ma che cosa che dici? Berlusconi a studio aperto, Berlusconi a Italia 1. Ho chiesto a Monti di fare il capo dei moderati. Potremmo vincere. Colleghi del Partito Popolare Europeo, ho ribadito di avere già chiesto al professor Monti di essere il punto di riferimento. Vabbè, questo l'abbiamo già sentito, chi se ne frega. Ma ha ribadito di essere stato coccolato da amici in Europa, lo snobbavano tutti, lo consideravano una sorta di appestato. Diciamo la verità, quando le cose accadono bisogna raccontarle per quelle che sono. Veniva considerato una sorta di appestato, a torto, a ragione. Probabilmente erano gli stessi leader molto cinici che prima non dicevano una parola su Berlusconi quando aveva i voti e adesso invece lo schifano. Questa è la realtà, il cinismo della politica è anche questo, uno potrebbe dire. Però è la realtà, cioè lo emarginavano quando uno perde consenso, eccetera. Quando uno è una figura come Berlusconi, che non ha molti rapporti con l'establishment, no? E beh, insomma, a un certo punto va là e viene emarginato. Ieri ho detto che sono stato coccolato e ho detto la pura verità. Sono tutti amici e abbiamo passato insieme molte situazioni e quindi sono legato anche di amicizia con ciascuno di loro, mentre invece ho letto che sarei stato addirittura processato, quindi non c'è stato niente di più falso. Piero dalla provincia di Parma, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica, dica. Mi sento veramente col magone perché sto venendo dalla mia realtà produttiva, che è sull'Appennino modenese. Sono passo da Parma e sto andando alla Spezia, nella quale vivo. Sono in mezzo alla neve. Mi sto distruggendo e sentire notizie tipo quelle che lei giustamente sta dando mi angoscio. Ma quelle sulla Regione Lombardia, sugli sprechi della Regione Lombardia, presunti tagli. Sugli sprechi della Regione Lombardia, sì. È una cosa inaccettabile. Io sono 35 anni che lavoro, sono in una forma anche dirigenziale, ho uno stipendio medio, ma nello stesso tempo non mi sono mai permesso, mai mi sono sognato. Allora, con mai... i suoi soldi, con quelli che lei ha nel portafoglio, con quelli che lei ha in tasca, caro Piero, senza il suo consenso, senza che lei abbia detto vai ve li do, cioè senza il suo consenso, il signor Renzo Bossi avrebbe, secondo l'accusa, acquistato videogiochi, sigarette, bibite, Red Bull. Soprattutto tra le bibite ci sarebbe la Red Bull. Ha capito? Sì, sa qual è però il problema, secondo me? È che in questo momento questa analisi è stata fatta sul PDL. Io le dico che ho un trascorso nel PDL, nel quale ora credo molto meno, penso di rispecchiare un po'. Lei dice dovrebbero fare le stesse indagini anche sugli altri gruppi parlamentari, consigliari o parlamentari, quello che personalmente mi dispiace molto è che penso che molto probabilmente, se andranno ad allargare, troveranno questa forma di marcio anche nella parte restante della politica, perché non è in questo momento, dal mio punto di vista, molto probabilmente si allarga a macchia d'olio. Grazie Piero. Paolo dalla provincia di Gorizia, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, mi rifaccio un po' all'inizio della trasmissione, quindi forse esco un attimino dal tema. Vada. Perché volevo dare una visione un po' diversa dal solito per quanto riguarda le dichiarazioni del Papa sui matrimoni gay. Vabbè, ma sono scontate quelle dichiarazioni, diciamo ci ha messo un pizzico in più di giudizio sui matrimoni gay, una ferita alla giustizia, alla pace, non si riesce a capire bene. Comunque sicuramente nel linguaggio del Papa ci sta. Ha usato parole forse un po' più forti del solito, diciamo, ecco. Ci sono due strane teorie, due bizzarre teorie che circolano, cari ascoltatori della Zanzara, voi che siete in macchina, sulle autostrade, sulle tangenziali, in città, in campagna, in collina. La prima bizzarra teoria è quella propugnata, quella diffusa, urbi e torbi, questa mattina sul Corriere della Sera dal signor Massimo D'Alema, il quale sostiene che Monti non si deve candidare, anzi addirittura sarebbe moralmente discutibile. Ovviamente se si candidasse il signor Monti come membro del governo di Bersani, o come se fosse scelto come membro del governo di Bersani, D'Alema non avrebbe nulla da dire. Nessuno addirittura usi il suo nome per una lista. Ma di che stiamo parlando? È la FIFA blu della candidatura di Monti. È la gioiosa macchina da guerra che potrebbe essere fermata all'ultimo momento, come accade nel 94. Sempre D'Alema, Da un consiglio a Monti, come si dà un consiglio, sai, ai vecchi saggi, Parenzo, ai vecchi saggi. Come fa D'Alema, no? Vi spiego io, diciamo. Sì, come indichi, le cose, indichi le cose utili da fare nei prossimi anni e i partiti si misureranno con questo programma. Cioè dire, tu di quello che secondo te bisogna fare, poi noi facciamo come senza cazzo ci pare. La politica, diciamo. L'altra teoria bizzarra è quella del signor Bossi, che con Monti ci sarebbero stati molti più suicidi, molto più suicidi. Abbiamo recuperato l'audio di Bossi in cui dice sparire dalla faccia della terra, e secondo Berlusconi Bossi si dovrebbe alleare con lo stesso Monti. Ma di cosa stiamo parlando? Monti ha il suo progetto delle banche, va, tira avanti. Infatti durante il suo governo si è ammazzato un sacco di gente, però ha fatto saltare per aria un sacco di famiglie. Quindi, per l'amor di Dio, io penso che Monti dovrebbe scomparire dalla faccia della terra. Sarà anche la posizione di Bossi, ma con questi qua, secondo Berlusconi, dovrebbe allearsi Monti. Io non so se voi vi rendete conto della follia. Cioè, con questi qua, io non do giudizi, con esponenti politici di questo tipo, di questa forza politica, si dovrebbe alleare, secondo Berlusconi, Monti. Ma dico, ma è o no da ci sarà pure della tattica politica, però è un po' da infermieri, o sbaglio, Parenzo? Da infermieri? Ma in realtà, adesso non voglio difendere il Cavaliere, ma c'è una lucida follia in tutta questa roba qui. A parte che oggi ha ipotizzato anche di non fare l'accordo con la Lega, pur di unire tutti i moderati. Sì, vabbè, questo, certo. E vabbè, no, è già questo è una roba. L'unica roba che sa il Cavaliere è che questo Monti fa, siccome fa paura a tutti, tutti ci vogliono mettere il cappello sopra, cioè Berlusconi, i centristi, ovviamente. Ma sentiamo Grillo, che sembra incredibilmente simile a Bossi. A Bossi, sì. Lui deve scomparire. Lui è stato, come dicono i vostri giornali americani, una bolla. È stato un bluff. Il nostro paese è fallito l'anno scorso. Ukulele, ukulele. A proposito della vergogna, bisogna provare tutto, sembra apparentemente una grande vergogna quella della Lombardia. Sentite come risponde il capogruppo della Lega, Galli, quando gli chiedono: ma scusi, ma perché non ci rendi conto, perché non ci dite come avete speso i soldi dei gruppi consiliari, come avete sprecato magari i soldi dei gruppi consiliari? Io non so niente. Non sa niente? No. Forse non ha visto le agenzie? No, le ho viste, ma non ho ricevuto nessun avviso di garanzia io. Ah, però l'ha visto, insomma, è a conoscenza della notizia, insomma. Sì, ma chi se ne frega? In che senso? Qual è il problema? Ma io non ho ricevuto avviso di garanzia, di che cosa mi devo preoccupare? Nel caso dovesse riceverlo? E verrà denunciato immediatamente il PM. Non siete turbati da questa cosa? Io, no? Guardi, me ne sto sbattendo i coglioni. Beh, siamo al top, No, ma scusa. Questo su Repubblica, No, ma scusami. Dimmi. Ma come si fa a dire? Beh, a parte me ne sto sbattendo i coglioni. Denunciare il PM, dice. Ma è quello denunciare il PM. Però lui dice denunciare il PM. Ma dice. Ma come era le Taormina, quella denunciare il PM subito. Ma io come denunciare il PM? È lui che ti sta facendo denunciare il PM subito, all'attacco, subito. Eravamo con Paolo dalla provincia di Gorizia. Paolo, non ci faccia calare la tensione, caro Paolo, vada. No, sentivo con piacere. Piacere e dispiacere. Perché vabbè, allora? Ok, allora, rapidamente, cerco di essere sintetico. Molto spesso i giornali, i mass media e quant'altro mettono in relazione le parole del Papa con le relazioni dei politici. Questo capita molto spesso, però secondo me c'è un errore di fondo. Cioè, che cos'è? L'errore di fondo è che un politico parla per la sua nazione perché ha giurisdizione, tra virgolette, in senso lato. Vabbè, allora il Papa invece? Il Papa parla per tutto il mondo e soprattutto per tutti i secoli. Le parole del Concilio di Costantinopoli in Nicea, dei primi anni, sono ancora valide. Ma va benissimo, questo è per gli iniziati, questo è per quelli che sono esperti di dottrina. Il messaggio che passa alla massa delle persone, il messaggio che passa a quelli che ci stanno ascoltando, non a lei che è magari un esperto di queste cose. Sì, il Papa parla come ne ha fatto la Chiesa negli ultimi secoli, non c'è nulla di strano, per carità. Però il messaggio che passa è che il Papa sostiene che il matrimonio gay è contrario alla pace, cioè che è una minaccia per la pace. Ha capito? Parole, sì o no? Questo è il messaggio che passa. Io le giudico sbagliate sicuramente. No, però ma voglio dire, io non so se siano le parole esatte, cioè, però il messaggio che passa è questo: che il matrimonio gay è pericoloso per la civiltà e per la pace, cioè porta alla distruzione del mondo in sostanza. Questo dice il Papa. Critico sta cosa. Volevo dire, queste parole vengono lette però in maniera, interpretate in maniera diversa. Ma ho capito, ma io sto dicendo in Afghanistan. Vabbè, ma chi se ne frega? Ma non è questo il punto. Dario da Roma, buonasera. Buonasera, Cruciani, buonasera Valenza. Niente, io volevo soltanto fare una riflessione per quanto concerne gli sprechi del pirellone. E volevo dire che in Italia è tutta una moda. Adesso stiamo seguendo la moda del controllo dei partiti. Io sono un professionista, ho fatto per anni il lei sta dicendo che i PM stanno seguendo una moda, che è quella di indagare. No, quello sicuramente, sì. Perché allora, adesso le spiego un esempio, sì. Voglio dire, emblematico. Io ho fatto il revisore dei conti di un ente di promozione sportiva. E niente, ho denunciato alla Procura della Repubblica gli sprechi che venivano fatti da questo ente che riceve da questi enti di promozione sportiva, che poi il motivo è lo stesso comune denominatore, che ricevono diversi finanziamenti del CONI, nell'ordine parliamo di 1 milione di euro l'anno. E loro sperperano questo denaro attraverso cene, incontri, viaggi. Io non ho mai visto una persona viaggiare così tanto, ovviamente sì. In business class, come il presidente di questa associazione e quant'altro. Ho denunciato tutto. Vabbè, alla Procura della Repubblica. Dai, e non hanno fatto nulla. Qual è stato il risultato? Il risultato è stato che ho perso la consulenza, sì. E là si continua a fare sempre lo stesso. Vabbè, ci scrive e ci racconti tutto. Comunque lei dice i PM qualche volta indagano e qualche volta no. Samuele da Verona, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Volevo raccontarle in un attimo a Parenzo, più che altro spiegarle la similitudine tra Cruciani e Beppe Grillo. Allora, noi ascoltatori siamo quelli del Movimento 5 Stelle, Cruciani e Beppe Grillo. Se non ti sta bene Cruciani, spegniamo la radio, cambiamo canale. Ma questo vale per tutti, non è che vale solo per me, Sì, no, ma intendo che mi fa ridere gli ascoltatori quando telefono, dicono non mi va bene, come fai, sei arrogante, guarda, non ti sta bene, cambia. Quelli di Grillo, non ti sta bene cosa dice Grillo o le regole che bravo, ha dato. Bravo, prendi, sì. Te ne vai, basta. Solo un'ultima cosa, sui fatti del Pirellone o quello che via via i politici li mangiano, sì. Penso che l'unica maniera di colpirli sia il fatto delle tasse che paghiamo. Io sono d'accordo sul pagare le tasse, servono per la luce, ospedali, tutte sì. Quelle madonne lì. Adesso domani ci sarà l'IMU da pagare, sarebbe da non pagarla. È da dire, ragazzi, mi pare un po' complicato, forse peggiorerebbe, peggiorerebbe le cose. Cioè la rivolta fiscale è prevista, per carità, nei grandi, no? Come ipotesi estrema di ribellione contro lo Stato pervasivo, contro lo Stato ladro, come direbbe Giannino. Però insomma mi sembra che in questo momento peggiorerebbe le cose. Poi un attimo solo. Chi è questo? Adesso te lo dico. Sempre la consigliera? Vediamo un po'. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Allora, Samuele, che diceva? Sì, su questo discorso era che quando Monti anche dice il più grosso problema dell'Italia è l'evasione fiscale, capisci che nel momento che senti queste cose, sì. Ma chi cazzo me le fa fare le pagare le tasse che se ne mangia a bere l'aperitivo? Cioè l'aperitivo lo offro io a chi voglio io, o la cena che la offro mia a chi voglio io, no? Ma certo, Samuele, soprattutto uno se la paga con i soldi suoi. Il fatto è che ci sarà una giustificazione, queste sono spese di rappresentanza, ho portato fuori quell'imprenditore di lì, quel cittadino di là per fare, no, per parlare di alcune proposte di legge che devo fare al Pirellone, eccetera, eccetera. Una giustificazione ci sarà. Alcune spese sono francamente ingiustificabili. Giampiero da Milano. Ma io contesto proprio l'esistenza di questi soldi, ha capito? Cioè il fatto che vengono dati questi soldi per le spese dei gruppi consiliari, hanno già lo stipendio. Giampiero da Milano. Buonasera. Dica. Buon Natale a tutti. Sì, vabbè, è ancora presto. No, io però, volevo chiedere solo questa piccola mia richiesta. Ma questa immoralità quando è che si chiude definitivamente? Bisogna fare una bella voce continua contro questi ciellini, il grande Roberto Formigoni che vede la Madonna, vede gli UFI. Ma adesso che c'entra? E tutto il resto. Bisogna continuare fino quando questi hanno la vergogna di presentarsi e di mandare le lettere caro amico. La ringrazio infinitamente e rinnovo buon Natale. Vittorio da Milano. Di aspettarsi le lettere di Io non sopporto. No. Buonasera, Cruciani. Buonasera. Io non sopporto gli auguri di Natale in diretta. Io, se c'è una cosa che non sopporto, sono gli auguri di Natale. Non me li fate, vi massacro. No, non li faccio, Cruciani. Avevo chiamato in relazione alle considerazioni di Guzzanti, anche sue, su Berlusconi. Cioè, io non credo assolutamente che questa persona sia disconnessa dalla realtà. Così dice Guzzanti, non è che l'ho detto io. Sì, sì, sì, però no, lei ha addirittura ipotizzava un attimo solo, un attimo. Prego, prego. Onorevole Bossetti? Pronto? Pronto, Bossetti? Sì. Buonasera, Cruciani, Radio 24, la disturbo? No, buonasera. Buonasera. Senta, ma come va questa storia che lei avrebbe speso 15.000 euro nel 2011 per dolci in pasticceria con i soldi pubblici? È vera o non è vera? Dipende cosa intende, perché se lei, se, visto che ho il diabete, pensa che mi sia mangiato 15.000 euro in pasticceria, mi sembra un po' fuori luogo. No, beh, certo. Quindi, il totale, totale delle mie spese, sì, dell'anno sono quelle, 14.000 erotti euro. E come, e come li ha spesi questi soldi? Scusi se glielo chiedo. C'è dentro un po' di tutto, dalle cene a pranzi a francobolli piuttosto che ad altre cose. Ma pranzi sono, perché? Scusi, pranzi per che cosa? No, non è che ci vogliamo fare, però sono soldi pubblici, sa, uno ci tiene un po', no? Se io e lei, se lei mi invita a venire in radio, sì, e io poi dico, senta, finita la trasmissione, la posso invitare? Abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di quello che della regione, può essere considerato una spesa ammissibile? Non lo so, non lo so, in alcuni casi sì, in alcuni no, quello dovrà decidere il giudice se è peculato oppure se lei ha utilizzato soldi nostri, cioè dello Stato, soldi pubblici, certo, per... un'attività extra politica oppure no, insomma, infatti aspettiamo, vediamo il giudice cosa decide. Ossia, a me hanno detto che era possibile e quindi sono state inserite andare a comprare un libro che non è un libro di fantascienza o di altre cose, ma un libro che poteva servire piuttosto che dei francobolli per spedire gli auguri di Natale. Ma scusi, ma sono ammissibili? Non lo so, i francobolli per gli auguri di Natale magari uno se li compra con i soldi suoi o no? Oppure attività politica pure quella? A noi hanno detto che era fattibile portarli. Ma chi ha detto? Ma chi l'ha detto, scusi, Bossetti? Dalla ragioneria ai capigruppo, i capigruppo all'ufficio nostro che parla con l'amministrazione. Cioè i capigruppo si sono consultati prima con la ragioneria, dice lei? Certo. Per avere un via libera, se erano considerate spese, come dire, per attività politica, giusto? Certo, se sono autorizzate, perché se no non dovrebbero essere autorizzati i rimborsi. Scusi un attimo, però qui risulta... ricariche telefoniche. Lei quanto ha speso? Avete già il telefono? Lei quante ricariche... ha detto di sì, quindi... lei quanto ha speso le ricariche telefoniche, scusi Bossetti? Non lo so, non ho guardato tutto l'elenco. Le torno a ripetere. No, però voglio dire, le ricariche telefoniche voi avete già il telefono pagato, mi sembra, no? No, è quello. Sono quelle i nostri rimborsi che ci danno. Però perché risulta 15.000 euro di soldi suoi, di soldi spesi in pasticceria? Dovrebbe chiedere a chi ha fatto uscire la notizia. Pasticceria, oltre che per fare colazioni con brioche e caffè. Pure la colazione è prevista come attività politica? Le chiedo, dipende chi ha fatto uscire la notizia. No, ma lasci perdere la notizia. È vero o no che lei li ha spesi? Ma non mica voglio fare pubblico ministero. No, io non ho speso 15.000 euro in cappuccini e brioche, perché sennò si rende conto che è folle, ci sono cifre che non si possono spendere in brioche e cappuccini, non ci si arriva. Però la colazione lei qualche volta l'ha messa... Neanche se invito 10 persone. Certo. Però torno a ripetere, se lei mi chiede un'intervista, dice, sì, Bossetti, ci vediamo in pasticceria, va bene. Oppure io entro in pasticceria o entro in un bar e ci sono delle persone, iniziamo a parlare di politica, dopo un quarto d'ora le dico, vi posso offrire da bere? Beh, però scusi Bossetti, però l'attività politica? Però Bossetti, scusi un attimo, è abbastanza curiosa questa cosa qua, perché tutto potrebbe rientrare sotto l'attività politica. Allora basta che lei dichiari è attività politica, è una colazione fatta con quattro amici al bar o una cena fatta con quattro amici diventa attività politica. Chiedo scusa, Cruciani, io sto a quello che mi è stato detto, poi non sono io andare a mettere dentro i soldi nel cassetto e tirar fuori i soldi. Ma Bossetti, io consegno gli scontrini. Parenzo, scusa un attimo, consegna gli scontrini e qualcuno poi li vaglia, li controlla e li rimborsa. Lei, se ma non qua... sono da rimborsare, se non rientrano nell'elenco che presumo qualcuno abbia fatto delle cose da rimborsare, non devono essere rimborsate. Scusi, tutto. Bossetti, lei quanto ha speso nel 2011, nel 2012? Lo sa quanto ha speso almeno? Come faccio a saperlo io? Come fa a sapere? Sono soldi che lei ha, come fa a saperlo? E in qualche modo non ha fatto un calcolo, no? Perché tanto non paga lei, dice, per cui... No, non è che non pago io. Io so che ho un budget in cui non devo sforare, se no giustamente, oltre non rimborso a nessuno. Sì. Sono stato ampiamente sotto a quelle spese, per cui dico, perché cosa devo fare? No, ma... Per carità, ma io per esempio sull'attività politica al bar avrei si può anche discutere di politica al bar, ma non è che discutere di politica al bar rappresenti un'attività politica. Adesso, Bossetti, io capisco i manifesti, capisco un convegno, ma una colazione al bar adesso forse no. Le chiedo, a lei Cruciani le rimborsano come persona che lavora a questa trasmissione di Radio 24? Le rimborsano se lei porta fuori una persona conosciuta, Sgarbi, piuttosto che un altro? Guardi, le offre da mangiare, guardi, innanzitutto sono casi, io non ho mai portato, raramente ho portato qualcuno, raramente ho portato qualcuno e ho fatto pagare l'azienda, e sarà successo 2-3 volte negli ultimi 10 anni, ma il punto non è questo, il punto è che quelli sono soldi privati, ha capito, di un'azienda privata, questi sono soldi pubblici, cioè nostri, miei, oppure no, lei... No, non parlo di come sono i soldi, però della cortesia che lei si riserva verso una persona che ha intervistato, che si è trovato bene, che ha fatto una buona intervista e tutto, e dice possiamo uscire a cena, le offro io la cena. Sì, vabbè, ma quello può succedere, però perché deve pagare il contribuente? Diciamo il fatto che lei inviti a cena me o inviti a cena qualcun altro? Io sto a quelle regole che mi sono state dette. Se invitate delle persone, andate fuori a una cena perché dovete parlare di politica, roba del genere, portateci la ricevuta. Ah, ok, però lei capisce bene che questa, lei l'avrà fatto correttamente, anche se qui si parla di 15.000 euro, che mi sembra una cifra abbastanza grossa. Comunque, vabbè, ripetere, quante cene fa lei? Quante cene fa all'anno? Faccia un calcolo, che ne so, cioè, 2 volte a settimana va a cena fuori? Ma no, saranno, non so, 30-40. 30-40 cene l'anno, dice lei. Neanche una alla settimana. Beh, guardate che una settimana ne fai due, una settimana, per 3 settimane non c'è niente da fare, insomma. E tutte quante vengono messe a carico della collettività, diciamo. No, perché lei dice si può fare, perché mi hanno detto che si può fare. Sì. E vabbè. Cioè, non sono io che pesco i soldi dal cassetto e me li prendo. Ma no, vabbè, ma certo, lei... Quindi, dire, se qualcuno me li rimborsa, si vede che ha valutato che erano... I francobolli per mandare gli auguri, anche quello, mi sembra un po'. Lei quale altra cosa ha fatto? Quale altra cosa ha autorizzato? Fanno parte dell'attività istituzionale mandare in giro delle lettere? Sì, può darsi. Mandare in giro delle lettere può darsi, ma per esempio... Cioè, non è una lettera per chiedere... Comprare un libro? Lei ha comprato libri? Un libro. Che libro ha comprato, scusi? Anche non lei? Me lo ricordo. Ma come non se lo ricorda? Ha comprato il libro, non se lo ricorda? Scusi, non me lo ricordo. Ma che pure lei ha comprato Mignottocrazia di Guzzanti, no? Come la Minetti, no? Se secondo lei vuole andare a vedere, a farsi dare gli scontrini da chi le ha passato le informazioni, chieda di fargli vedere lo scontrino, così me lo dirà. Ma Bossetti, mi scusi, sono Parenzo, un abbraccio fortissimo, Bossetti, amico mio, ma le chiedo soltanto una cosa. Non siamo amici, però no, amico mio, nel senso, Bossetti, virgola, amico mio, virgola, le chiedo, tutto bene le spiegazioni che ha dato, le dice il ragioniere, lì ha detto che poteva andare bene, ma fossero stati i soldi suoi, tutte ste cazzo di cene le avrebbe fatte oppure no? Ma lo chiedo con rispetto, perché adesso vengo anch'io a cena con lei, discutiamo. Se, e poi se a me dicono che se porto fuori un giornalista è fattibile il rimborso, va bene. Io lo faccio. Non è fattibile, pago io personalmente. Quando la zanzarina. Beh, devo dire però che a modo suo, caro Parenzo, ci mette la faccia il signor Cesare Bossetti, che è consigliere regionale della Lega Nord. Ci mette la faccia e anche la pancia, qua, tutto il piacere. Vai, la pancia adesso, Parenzo, non esagerare, su. Bossetti, dico... buono, va bene, perché prendere in giro la gente non serve a niente. Ma no, e ma farsi dico... bello. Se nelle spese mi vengono contestate anche l'acquisto di giornali, secondo lei io posso informarmi acquistando dei giornali o che cosa? Ma che cos'è che le viene contestato? Allora facciamo l'elenco di cosa le viene contestato. L'acquisto di un giornale. Un giornale, qua, un giornale, poi torno a ripetere, non so se questo, l'elenco che ho io, sono le spese fatte o sono tutto o solo quello contestato. Quelle contestate che cos'è? I francobolli sicuramente. Poi le cene? Le cene? Lei quanto spende? Le cene. Poi? È stato contestato un libro, è stato contestato una cartoleria che non mi ricordo più che cosa può essere, perché spese di cartoleria. Non lo so, però si è comprato. Anche per noi, se dobbiamo comprare dei toner, il cancelliere del genere, ci dicono che si può fare. Poi? Ho acquistato dei giornali. Dei giornali? Posso farlo? È questo che i giornali, giornali... hanno detto, sì. Han detto sì, queste cose sono spese ammissibili. Io non ho mai preso nessuno con andare là con un'arma e dire mi devi rimborsare. Consegno gli scontrini, quelli che mi vengono rimborsati va bene, quelli che non vengono rimborsati non li voglio neanche vedere. Colazioni? Li buttano via direttamente, sì. Colazioni, cene, pranzi, cose di questo tipo. Ma lei quanto spende in media per una cena? Posso spendere 30 euro in tre come ho trovato, o spendere 100 euro in tre o 110. Dipende, insomma, dalle situazioni. Un personal computer mi è stato contestato. Beh, personal computer, quello se lo potrebbe pure pagare con i soldi suoi, un personal computer, no? Ma se mi viene detto che lo posso acquistare perché fa parte dell'organico che posso avere di materiale per lavoro. Ma non ce l'ha un computer in ufficio alla Regione Lombardia, scusi Bossetti? Sì, posso averlo, questo era un computer portatile. E dunque lei si è comprato un computer portatile? Posso comprarlo? Sì, assolutamente. Sì, no, per carità. Lei ha chiesto l'autorizzazione? Certo. A chi? In ufficio. In ufficio. Alla parte amministrativa, che a loro volta hanno degli ordini da rispettare. Dunque lei dice che questa inchiesta è tutta una truffa, in realtà è un... non è una truffa, perché un magistrato fa il suo dovere. Secondo lui non sono ammissibili queste alcune spese, penso proprio che non siano tutto quell'elenco che mi è stato dato, ma di queste alcune non sono ammissibili, se ne discuterà, arriverà la ragioneria di Palazzo Lombardia e dirà no, per noi queste spese sono ammissibili. Però scusi, lei, ho capito, ma lei non può dire che invitare però a cena basta parlare di politica perché diventi una cena politica. Questo è paradossale, però, Bossetti, scusi. Perché? Ma come perché? Perché politica, tu, perché scusi, tutto a questo punto. Cioè, lei dice che... ogni cena, se uno fa il politico, ogni cena può, si parla di politica e dunque può essere messa. Ma al 99,9% si parte e si finisce sempre a parlare di politica. E dunque tutte le cene possono essere messe a carico del contribuente, dice lei. Non lo dico io. E chi mi lo è dice? Ho detto che è così. Vabbè, ma ho capito. Ma vale un minimo, scusi, però. Se io le posso. Ma torno a ripetere. Bossetti. Se lei, Cruciani, il suo datore di rimborso tutto, lei può decidere di farsi rimborsare o di non farsi rimborsare, però se è sposato la moglie le dirà scusa ma perché non te le sei fatte rimborsare, sono affari miei, va bene, ma potevi fartele rimborsare. Ma perché sua moglie le dice perché non ti sei fatto rimborsare la cena? No, sto dicendo a lei, non a mia moglie, perché lei dice che è giusto o non è giusto, dipende, ma giusto offrire, perché lei prende 10.000 euro al mese o 20.000 euro o 1.000 euro al mese, ritiene di offrire qualcosa con i suoi soldi, lo offre. Ho capito. L'azienda le dice le rimborso io i costi. Però allora la domanda vorrei è capire quali sono i manager che in giro, che alcuni hanno dei budget di spesa e non usufruiscono di questi budget di spesa. Però è anche vero, possiamo partire dalla RAI ai ministeri alle società private, però scusi, io voglio dello Stato, tutto quello che vogliamo. Ho capito una cosa, ripeto, la differenza è che nel caso mio sono soldi privati, nel caso suo sono soldi pubblici, però la cosa che vorrei capire è questa, cioè basta il problema, la differenza è solo è uno è pubblico e l'altro è privato, ma non è una differenza da poco. Ma se uno mi dice questo è fattibile portare, te lo rimborsiamo, io perché devo prendere il biglietto e buttarlo? Benissimo. La fattura, la ricevuta, buttarla? Va bene, bisogna vedere chi gliel'ha detto e se chi gliel'ha detto ci ha visto giusto oppure in realtà ha interpretato a modo suo le regole in maniera piuttosto... Come io sono nuovo, sono al primo giro, mi sono adattato a chi è il capogruppo, a chi è là da più anni di me, dire queste spese le puoi dunque portare. È Galli che... Io ho consegnato gli scontrini, la documentazione, non ho obbligato nessuno a rimborsarmi, non ho minacciato per farmi rimborsare. Se me le hanno rimborsate vuol dire che era fattibile il rimborso. Beh, bisogna non vedere poi. Non si voglia pigliare la denuncia per avermi rimborsato qualcosa che non poteva. Scusi Bossetti, però la cosa che voglio capire, con lei, con il suo stipendio, potrebbe fare attività politica oppure effettivamente è troppo poco, è troppo basso lo stipendio se uno dovesse pagare anche le cene? politiche. Assolutamente alto, non basso, alto. E allora perché una parte dello stipendio non viene utilizzato per fare attività politica? Come facciamo tutti noi, una parte dello stipendio noi la utilizziamo anche per, no, per vivere, per campare. Guardi che quando vado al supermercato a comprare per casa mia, lo pago io. Guardi che qualcuno sembra che non l'abbia fatto dei suoi colleghi. Se qualcuno non l'abbia fatto, vadino a prendersela con lui e chiedere spiegazioni. Per esempio, io i dolci in pasticceria. Scusi, se uno va al supermercato. I dolci in pasticceria, Bossetti, che le vengono contestati. I dolci in pasticceria, adesso abbia pazienza. Si faccia dare gli scontrini da chi le ha passato l'informazione e vedrà se ci trova una torta, per dire. Non c'è una torta, ci sono sempre colazioni e basta. Non c'è una torta, tu ripeti, io sono diabetico, così adesso lo sanno un milione di persone in Italia. No, magari le ha offerto. Mangiare dolci per me è un problema. Se lo offro agli altri non posso dire di no. Ma perché offre? Io questo è il principio. Perché lei, se lo offre agli altri, lo devo pagare io? Perché mi è stato detto che è fattibile. Che è attività politica. Se lei va al bar a parlare con qualcuno di politica, è attività politica, giusto? Sì. Vabbè. Allora ci dica sempre nel bar dove va, così le mandiamo flotte di truppe di ascoltatori della Zanzara e gli offre la colazione tutte le mattine. Allora facciamo un servizio. Se lei mi manda flotte di persone, apro io un bar personalmente. Così io l'utile. Bossetti. È forte, però. Bossetti. Consigliere regionale. Bossetti. Che sarebbe un piccolo boss, sostanzialmente. Bossetti è un piccolo boss. Bossetti. Con rispetto, le voglio chiedere solo questo, no? Abbracciandola forte, amico, e dicendole anche amico mio, le chiedo, se lei va a fare la spesa, in base a quello che lei sta dicendo, se lei va a fare la spesa, compra un po' di cose, poi si organizza una cena politica a casa mia, nessuno le rompe i coglioni, mi dice, ma io ho organizzato una cena politica e intanto ha fatto la spesa. Cioè, lei capisce che ci vuole anche un po' di intelligenza, cioè capire la norma, no? Perché non è che io posso essere, posso capire tutto. Allora, facciamo sì che le istituzioni preposte facciano un elenco delle cose che si possono recuperare. Paradossalmente, Bossetti ha ragione paradossalmente, perché non c'è chiarezza all'inizio su questa cosa qua. Ho capito, però lei ci ha marciato, anche lei un po' ci ha marciato, su Bossetti. Anche lei un po' ci ha marciato, perché non può non capire che andare pagare ogni volta a cena in cui si parla di politica, farla pagare al contribuente è una cazzata, è un errore, è uno spreco di denaro, sì o no? Se uno non capisce questo, però, scusi. Questo lo dice lei. Vabbè, allora, io secondo lei è giusto. Allora, dica. Parlare di politica con delle persone è sempre una cosa che fa parte del mio lavoro. E dunque lo devo pagare io. Vabbè, ho capito. Se convinco delle persone a votare Lega, ben venga. Se ci sono delle persone fedeli o di sinistra che mi chiedono dei chiarimenti su delle determinate cose, ma che roba va benissimo, fa parte del mio lavoro. Benissimo, ho capito. Se in quello che io posso farmi rimborsare rientrano queste spese, me le rimborso. Se no, io non ho mai chiesto di avere dei rimborsi non dovuti. Va bene, Bossetti, grazie. Lei ci ha messo la faccia. Questo bisogna dire, ci ha messo la faccia. Ha risposto e dice... Fare. No, lei ha ragione. Lei mi chiama in diretta, sarebbe anche scortese dirle di no e fare una brutta figura. Ma dove va a fare colazione? Bravo, Bossetti. Perché non mi ha detto, bravo. In diretta. Vabbè, uguale, è la stessa cosa. No, si è dimenticato, Cruciani. Mi sono dimenticato, Ma dove va a fare colazione la mattina? È numero uno, Bossetti è numero uno. Dove fa colazione la mattina? Cruciani, qualche mattina passo da lei a trovarla, vediamo se mi offre. Ma io le offro, però pago io, ha capito? È diversa la cosa. Cioè. Se no, pago io. No. Ma scusi, ma Fiorito allora ha ragione quando dice che molti soldi servono per l'attività politica, per le cene, per esempio, signor Fiorito. Siamo anche ragionevoli. Se io spendo 3.000, 4.000 euro, 5.000 euro, o anche di più, perché come da quello che so di Roma parlavano di 100.000 euro all'anno. Del Lazio è un discorso. È un discorso spendere 800 euro al mese. Vabbè. È un po' diverso. Sono 30 euro neanche 30 ma lei lo sa giorno. Allora che ha speso 800 euro al mese? Ma non è questione di quantità. No, quello che vedo qua sul documento che mi è stato dato, ecco, mi dicono che sono 22.000 euro di accertamento. 22.000, cioè le contestano 22.000 euro di spese? Complessivamente. Dopodiché vedremo quali sono effettivamente che sono spese, si possono rimborsare o non rimborsare. Cioè 22.000 in quanti? In un anno? No, dal 2010 al 2012. 22.000 euro di contestazioni, vabbè, poi si vedrà, sui francobolli. Lo può dividere anche solo per 24, diciamo, sono 900 euro, 850, grosso modo così. Di attività politica al mese, soprattutto in cene, diciamo la verità. Se io vado, le chiedo scusa, un'altra, una delle sì. pochissime, saranno 7-8, ma se io prendo il taxi per andare in centro Milano, sì. perché devo andare a una conferenza stampa, e che pago io? A un incontro politico. E che pago io? Le chiedo. Ma no, ma, che sì. ma no, ma scusi Bossetti, ma questo è paradossale, scusi. Ma lei deve fare, deve andare al centro a Milano per fare attività politica, per andare a un incontro, e il taxi lo pago io. Ma perché, scusi, c'è lo stipendio già, ci sono già i benefit, lo stipendio della Regione Lombardia, lei prende uno stipendio più benefit. Se vuole ascoltarmi, sì. le sto dicendo, se mai il taxi mi dicono che lo rimborsano, ma io li consegno lo scontrino, non è un diritto. No, ma ho capito, non è lei che decide, ho capito che non è lei che decide, ma non lo può ritenere corretto questa cosa qua, non la può ritenere corretta. Invece lei mi dice, sì, è giusto che mi rimborsino il taxi perché è attività politica. Lei ha già lo stipendio più, vari benefit come consigliere regionale, lo sa benissimo. Allora, tirino via questi soldi, queste possibilità di rimborsi. Ho capito, non sono, ma... sono arrivato nel 2010. No, ma ho capito benissimo. E lei non dice... è una legge che è stata fatta da Regione certo. Lombardia nel 2010. Lei dice, non l'ho fatto io. Quindi, non è così. Venga tolta. Vabbè. Io non ho quel problema. Ho capito. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo il piede. E siamo qui dopo la performance di Cesare Bossetti, bravo. Consigliere regionale leghista, il quale sostiene che lui ha speso dei soldi, 22.000 negli ultimi due anni, perché era stato autorizzato anche quando va al bar, appena si comincia a parlare di politica, quella diventa una colazione, un pranzo, una cena, quella che noi definiremmo aziendale se fosse un'azienda privata, e diventa invece una cena, un pranzo, una colazione politica. Quindi, e dunque paghiamo noi. Cari amici della zanzara, cari amici della zanzara, avete capito? Quando incontrate il signor Bossetti in qualche bar, sì. voi subito avvicinatevi, cominciate subito a parlare di politica e vi verrà offerta la colazione. Questa è la sostanza. Fabio da Bologna, 800240024. A pensarci bene, anch'io una volta sono stato indirettamente invitato a pranzo da un consigliere regionale della Lombardia, di cui non rivelerò mai il nome. Mi trovavo vicino al Pirellone con un'altra persona che non c'entrava assolutamente nulla. Anch'io. Si è avvicinato, no, tu non c'eri. Vabbè, tu sicuramente, perché hai bazzicato molto di più della Regione Lombardia. Mi è capitato moltissimo, certo. Io invece ero a pranzo un giorno. Ma pensavo pagassi a lui quei soldi suoi. Si è avvicinato un consigliere regionale. Consigliere regionale di maggioranza dell'ex maggioranza della Lombardia, ci siamo messi a parlare certamente di politica, come ovvio, e mi sono alzato e gli ho detto faccio io. Tanto, grazie. Beh, no, ecco, l'indicazione non vorrei è... adesso, non vorrei che poi avesse messo pranzo con Cruciani. E ti arriva la finanza tra poco lì subito. E sono rovinato subito. Lei quel giorno lì. Ma c'è di più, perché non, attenzione però, si può parlare solo di politica, non di gnocca. Ah no, di gnocca anche, perché la gnocca è politica ormai. Beh, certo, che stai scherzando. Si può parlare anche di donne, capito? Sì, ma il problema è chi controlla che quella è stata una scena politica, hai capito qual è il punto? No, ma comunque mi sembra. Io lo vedo anche in positivo. Cioè, questo qui è una forma di welfare, una specie di Caritas. Quindi chi è in Lombardia adesso sa perfettamente, andate cari amici della zanzara da lunedì sotto, piazzatevi sotto il Pirellone, appena beccate ora di colazione, appena beccate pranzo, un consigliere regionale, beccate uno e dite oh, allora come va con Berlusconi, no, dice bene, noi andiamo a pranzo, così ne parliamo a pranzo, e state a pranzo tutti. Fabio da Bologna, buonasera. Buonasera, signor Dica. Cruciani, buonasera a Parenzo. Volevo semplicemente fare un appello, perché da dopo le primarie non ho più avuto notizie di Renzi. Volevo desaparecido. Sì, no, l'ho sentito molto prima delle primarie, ma dopo si è sentito qualcuno poco. Parla di bolla mediatica, ma in realtà sì, è normale che sia così. Renzi ha deciso comunque una strategia, ha fatto un'intervista l'altro giorno al Corriere Fiorentino in cui ha detto che si ricandiderà a sindaco di Firenze, punto e basta. Ha parlato il suo braccio destro, Reggi. Ma succede, non è detto che sia una ritirata, ecco. No, vabbè, io invece preferirei un ulteriore passo in avanti. Anch'io. Non era possibile vincere contro i poteri forti del PD. Lei tenga conto che ho 42 anni, ho sempre votato a sinistra, sì. Io sono un po' stanco, preferirei che lui si presentasse da solo, mollasse tutti, se ne fregasse dell'onorevole D'Alema, che peraltro aveva già manifestato la possibilità, nel caso avesse vinto Renzi, di dargli battaglia, quindi poche chiacchiere, partire e andare contro tutti, perché è sì, la volta D'Alema, buona. Che peraltro, non so se in questa intervista o in un'altra precedente, forse in questa addirittura lo candida ministro di Bersani, potrebbe fare il ministro nel prossimo governo Bersani. È evidente che adesso D'Alema cerca di portare anche Renzi a giocarsi la sua partita, magari contro Monti. Grazie Fabio. Roberto da Brindisi, buonasera. Ciao. Dica. Allora, io sono un consigliere comunale che deve pagarsi da colazione anche quando la vuole offrire. I soldini li deve tirare fuori dalla tasca. Lei sta parlando col viva voce o con un telefono? Comunque che si sente male, su questo non ci sono dubbi. Ah, ho capito, mi spiace. Volevo anche stigmatizzare le frasi del Papa. Insomma, voleva stigmatizzare le frasi del Papa. Qui però non siamo in consiglio comunale, Roberto. Usi un linguaggio un po' meno standard. Sì, ecco, insomma. Penso che qualsiasi forma d'amore... Sì. Posti avvicina alla pace. Vabbè, sento male. Francesco da Matera. Ah, salve, buonasera, finalmente. Dica. No, volevo dire che sono davvero avvilito, insomma, da tutto quello che ho sentito, che ho avuto l'occasione di sentire adesso tutti i discorsi del consigliere. Io personalmente, cioè, io penso che una cattiva coscienza può anche generare una cattiva legge, ma una cattiva legge non deve generare una cattiva coscienza. E poi io mi sento grandemente di friggere, insomma, mi sento veramente abilito perché sono costretto, questo lo dico come testimonianza personale, ad andare dall'avvocato perché mio figlio disabile non ha tutte le ore del sostegno. Cioè io penso che questa sia una grande ingiustizia, cioè lui avrà anche i suoi diritti, ma io ho molto più diritto, il mio diritto. Sì, però se ci mettiamo a discutere sui soldi che vanno ai gruppi consiliari, potrebbero in realtà andare per altri scopi, eccetera, eccetera, è un discorso che possiamo fare su tante altre cose, no? Scusi. Sì. Se ho detto questa cosa un po'. Non ho capito, scusi. No, scusi se l'ho detto un po', forse, però io penso che sia veramente scabroso, cioè come si dice dalle nostre parti sono schiaffi a Gesù Cristo, cioè non si può fare, non è possibile, cioè io posso anche dare fuori di testa un giorno e fare qualunque cosa perché sono disperato, perché ho problemi, non voglio imputare i problemi miei, i problemi di altre persone a questi signori, a questi illustri signori, ecco, un giorno potrei arrabbiarmi sarebbe molto brutto. Va bene, grazie. Maurizio da Bari, anzi no, Gianni da Chieti. Gianni? Sì, ci sono, giuro. Vada, pronto. Vada. Anche questa sera, no, questa sera comunque, no anche, questa sera Cruciani lei si è dimostrato forte coi deboli e debole coi forti. Scusi, a proposito lei di cosa? Il compagno di merende. Il compagno di merende, sì. Lei quale onorevole? Questo, perché quando uno come me, autotrasportatore, autista, operaio, cominciano a dire delle cazzate, allora subito scatta la punturina, scatta la camicia di forza. Quello lì, quell'onorevole che si è mangiato i nostri soldi, sì, l'ha fatto parlare un'ora e noi continuiamo a sentire le cazzate che dice quella persona lì. E mi sembra un atto di cortesia offrire la colazione a un'altra persona. No, quello non si chiama cortesia, dite a quell'onorevole, onorevole tra virgolette. Quello significa approfittare, atto di cortesia si fanno con i propri soldi. Non con i soldi dei contribuenti. Scusi Gianni abbia pazienza Gianni, se lei non ha capito che noi in realtà la pensavamo in modo diverso, non dica stupidaggini, se io mando a quel paese l'onorevole Bossetti, il consigliere regionale Bossetti, dopo un secondo è evidente che non c'è più discussione. Dunque ma devo certo, ma 20 minuti ci dobbiamo sentir presi per il culo. Esatto, bravo, lei si è indignato, si è indignato abbastanza, devo aver ascoltato. Ascolti un attimo, se io domani mattina vado al bar e vado a parlare con un mio collega autotrasportatore e dirà vabbè stiamo parlando di camion, allora porto la ricevuta del bar, lo porto al commercialista, il commercialista mi dà un calcio nel... Immagini lei dove? No, nel culo. Ma scusi Gianni, esatto, abbia pazienza. Perfetto, scusi, ma noi che c'entriamo? Scusi, cosa c'entriamo noi? Noi abbiamo fatto parlare anche il suo compagno. Oh, buonasera, stimatissimo. Ma quello è un modo di dire, Gianni. Ma è un modo di affrontare i discorsi. Su, Gianni, se lei ci ascolta, ci conosce. Non dica stupidaggini pure lei, dai, su. Si capisce l'ironia dove termina e dove... Ma perché invece di prendersela con Bossetti se la prende con noi? Poi, tra l'altro, chiedo scusa, tra l'altro, poi ho detto alla sua collaboratrice, bisognerebbe chiamare anche chi riceve questi scontrini e dice, ok, diamo, questo lo rimborsiamo, perché non telefonate a chi materialmente riceve questi scontrini? Ma che c'entra la ragioneria? Dice, okay. Che vuol dire? Quella è... Ho capito, ma si ricorda che lei qualche... non so, penso che l'abbia visto... servizio di report di un mese fa, due mesi fa, quando hanno chiesto a tutti i partiti, dateci, visto che sono soldi pubblici, dateci i vostri estratti conti bancari, così noi facciamo un controllo. Ho capito, ma lei ha ragione su questo, ogni spesa andrebbe rendicontata euro per euro, centesimo per centesimo, e messa immediatamente a disposizione del pubblico attraverso il web. Dopo due secondi, se uno porta uno scontrino e uno dovrebbe risultare, il gruppo eccetera, ha speso oggi 200, 300, 400 euro eccetera eccetera. Maurizio da Bari. Eccomi, il grande imbroglio, la grande farsa. Provate a immaginare uno scenario diverso, Berlusconi in difficoltà, i poteri politici, e alcuni politici e i poteri economici gli impongono Monti. Monti già da un anno fa è stato indicato non da Napolitano, ma da Berlusconi. Da Berlusconi, sì. E allora? E allora, quale sarebbe la farsa? La farsa è che ce la siamo bevuta tutti, siamo stati veicolati tutti, compresi gli organi di informazione, abbiamo creduto che Monti fosse il salvatore, quello che doveva aggiustare i conti, in realtà ha mosso solo alcune pedine ed è riuscito a fare delle riforme, tra l'altro votato dal PD, che non avrebbe mai votato, riforme come la riforma sulla pensioni, che in altri tempi avrebbe portato in piazza milioni di persone. Sì. Non ho capito, e allora ce la continuiamo a bere. Non ho capito dove vuole arrivare lei, scusi Maurizio. No, voglio arrivare che siamo stati tutti quanti ingannati per un anno. Ma da chi? Ingannati da chi? Ma io sostengo che Berlusconi, Monti è un uomo di Berlusconi. È un uomo di Berlusconi. Non mi pare proprio, dalle ultime vicende non mi pare proprio che sia un uomo di Berlusconi, Non mi pare proprio. Alla fine ci arriviamo. Sì, qualcuno sostiene, anche Claudio Messora, un giornalista che collabora con L'Ultima Parola, che Monti sia addirittura un'invenzione di Berlusconi, no? Semplicemente perché lo nominò nel 94 al commissario europeo. Ma non c'entra, come dire che la Bonino fu un'invenzione di Berlusconi. Ma insomma, cosa noi che... continuiamo a sottovalutarlo, Berlusconi, ma è ancora molto pericoloso. In merito al discorso Regione Lombardia, volevo soltanto dire che è successo solo a Parma qualche anno fa una sorta di rivoluzione civile che ha portato a far cadere il governo del comune di Parma. Sì. No, siamo smidollati noi, non abbiamo le palle. Ma bisogna vedere questa rivoluzione, bisogna vedere se questa rivoluzione poi va in porto. Da quello che, insomma, dai primi atti del nuovo governo rivoluzionario di Parma non mi sembra proprio questa grande rivoluzione. Capito, ma intanto mandiamoli a casa, mettiamoci sotto il governo della Regione Lombardia e lanciamoli uova dalla mattina alla sera. Vediamo se non vanno a casa tutti i giorni. Io non so cosa devo dire di più di quello che ho detto all'inizio della puntata, caro Parenzo. Quando mi sono incazzato come una bestia, perché il mio motto è sempre lo stesso: affamare la bestia, togliere il finanziamento pubblico ai partiti. E vedrete che non ci sarà più nessun consigliere regionale che si fa pagare le cene dai contribuenti, le cene e le colazioni dai contribuenti. Non ce ne sarà più nemmeno uno. Se uno affama la bestia. Ma non è questo, cioè, sì, è questo. Se usassero, ci fossero delle regole chiare. Ma che regole? Le regole non bastano. Non bastano. Se loro avessero un minimo di faccia, non come. Avessero un minimo di dignità nel spendere questi soldi. Allora, voglio sapere quanto è incazzato con le parole del Papa Alessandro Cecchi Paone. Buonasera, ciao Alessandro. Ciao, purtroppo molto arrabbiato, ma anche abbastanza stupefatto. Perché? Il contesto, cioè, non è una novità, no? Soltanto dirlo nell'ambito di un messaggio sulla giustizia e la pace è veramente sconvolgente. È una dichiarazione di guerra, non soltanto alle persone omosessuali per il no, tra l'altro sprezzante, alle nozze gay, ma devo dire a mezzo mondo. È una dichiarazione di guerra a tutti coloro che vogliono progettare l'uscita della vita secondo i loro convincimenti. Una dichiarazione ma che ci azzecca la pace, per esempio? Per questo sto dicendo, è strano, una dichiarazione di guerra a mezzo mondo nel giorno della pace. Qui secondo me c'è questa smania da parte vaticana di perseguitare la richiesta di diritti civili e di libertà laiche a tutto tondo, in qualunque momento, con qualunque pretesto. È una cosa veramente inquietante, misteriosa per certi versi. Allora, fra poco ci rivelerà Alessandro Cecchi Paone una cosa, che in realtà c'è un grande ritorno alla politica, vero Alessandro? Beh, siamo al top. Di tutto questo qualcuno deve pure tentare di arginare nel suo piccolo, no? Beh, Cecchi Paone in Parlamento nel 2013 sarebbe una battaglia continua, sarebbe. Noi lo sosteniamo, ovviamente, no? Noi della Zanzara lo sosteniamo. Parenzo, lo sosteniamo, grazie. Che dici? Beh, sentiamo, non a prescindere, io voglio bene. Ma come non a prescindere? C'è chi paura for 2013. Ma cosa fa, una lista gay? Aspetta, cosa ma che lista gay? Aspetta, aspetta, aspetta che te lo dice. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Quando tutto sembra poesia. C'è un prete che si chiama Don Marra. Don Marra che vede Satana ovunque. Non c'entra con Alfonso Marra. No, vede Satana ovunque. Si trova a Bologna, Don Giulio Marra. È uno che canta anche bene, eh. Fa delle prediche contro Marilyn Manson, addirittura organizza delle veglie. Vi rendete conto o no? Le cose pazzesche. Sacerdote della comunità Nuovi Orizzonti. Per carità, bisogna sempre avere rispetto di tutto, eh. E però adesso ha scoperto, insomma, una parola grossa, è convinto che, per esempio, Tiziano Ferro, voi conoscete il signor Tiziano Ferro, sì, e per carità, omosessuale, eccetera, e nelle sue canzoni, se uno le legge al contrario, oppure il nome Ferro al contrario, non ho capito bene, in realtà direbbe Ferro grazie Satana, direbbe grazie Satana. Sentite. Ti piace Tiziano Ferro? C'è una, meno male, c'è una canzone che si chiama Indietro. Se uno avesse l'apparecchiatura per ascoltarla indietro, cioè al contrario, in quella canzone dice grazie Satana, lui mi tiene libero. Non me l'aspettavo da Tiziano Ferro, però l'ho sentita ed è abbastanza chiaro quello che dice. Grazie Satana, lui mi tiene libero. Don Giulio Marra, sacerdote della comunità Nuovi Orizzonti. Nuovi Orizzonti, che ha vietato anche Imagine. O Imagine, che è Imagine? Imagine. Imagine. Sì, sì. Perché nega il paradiso. L'unica volta che da parroco ho dovuto proibire di suonare una canzone in chiesa ai ragazzini della mia scuola media è stato per Imagine. Mi piace tanto, ma perché mi devi venire in chiesa? Perché mi devi chiedere ai bambini delle medie di cantare Speriamo che non c'è paradiso? Ma speriamo che c'è il paradiso. E ti farò male. Don Giulio Marra, numero 1 assoluto, 800 24 00 24. Abbiamo con noi da Napoli Alessandro Cecchi Paone, il quale è molto arrabbiato col Papa, e vabbè, questo è abbastanza scontato, devo dire, pur non essendo un antipapista di professione, Alessandro, e però si candida alle elezioni. La realtà è che si candida con Bersani, cioè con i socialisti, con Bersani, no, con centro-sinistra. Sì, sì, si candida con i socialisti, vero Alessandro? È verissimo, ho assunto il ruolo di rappresentante del Partito Socialista di Riccardo Nencini per le libertà civili, i diritti e la laicità, perché non se ne può più, perché non solo non pagano le tasse, non solo dicono queste stupidaggini sul diavolo, ma adesso hanno dichiarato guerra, mi dispiace, tramite la bocca del Papa, a mezzo mondo, ripeto, come dicevamo prima, non soltanto ai, sì, gay, che vorrebbero anche in Italia potersi veder riconosciuto il diritto, sì, all'amore e alla coppia, ma le donne sull'aborto, tutti gli esseri umani che vogliono morire come vogliono loro e non come decide il Papa. Insomma, l'idea nostra, cioè, che il Vaticano sia Nencini, che il Vaticano sia una sorta di nemico da abbattere, questa è la realtà. Beh, sono loro che si pongono come tali. Io sono tra quelli che sanno benissimo che la Repubblica è stata forte nei momenti in cui laici e cattolici hanno potuto collaborare, ma qui invece c'è un'offensiva che dura da almeno 10 anni, prima con l'aiuto della destra, adesso forse con l'aiuto del centro, sì, per fare dell'Italia l'unico paese occidentale clericale e confessionale. Senti, scusami un attimo, tutti candidi in realtà contro il Papa, diciamo la verità. No, io mi candido. È una candidatura contro il Vaticano, europea, su. No, io mi candido perché l'Italia sia europea, sì, non soltanto dal punto di vista della moneta o della banca centrale, come ci ricorda giustamente Monti, ma anche dal punto di vista appunto dei diritti, della libertà, della speranza, dei progetti di vita. E oggi gli unici che possono assicurare queste cose sono Bersani e Nencini, giusto? E Vendola, non dimenticare che qui abbiamo, certo, un'alleanza a tre dove finalmente laicità e diritti civili con le due gambe del Partito Socialista che rappresento in queste, sì, cose, e Vendola potrebbero finalmente... Ma tu sei passato, sei passato in realtà dal PDL a Bersani, Vendola e Nencini, questa è la realtà. Sei rimasto... Io certamente ci ho provato come radicale, sì, dentro Forza Italia, e non ci siamo riusciti, e a questo punto proviamo con quella che è la casa normale, dovrebbe essere la casa normale, quella progressista per i diritti, anche se nel resto d'Europa non è sempre. Sei stato così. Anche candidato, no? Ti ricordi, alle europee, se non mi sbaglio, no? Dov'è, sì, che sì, sì, alle europee nel 2004, quando feci il coming out, proprio per dare forza a questa presenza laica nel mondo di Forza Italia, che aveva una grande componente socialista, laica e radicale. Non ce l'abbiamo fatta. Perché ormai il centrodestra cosa si è ridotto da questo punto di vista? Troppo papalini? Ma purtroppo con il PDL è diventato post-fascista e clericale nei contenuti che hanno a che fare con i diritti civili, che hanno a che fare con la laicità. Ma che ti ha detto Nencini? Dove ti candida? No, ma non abbiamo parlato di candidature. Quello che conta è fare una grande battaglia politica. Io ho per fortuna tante cose da fare nel lavoro, quindi la candidatura non è in ballo necessariamente. Mi ha chiesto di diventare non Vabbè, solo poi un ti candidi, su, dai. Non solo un voto individuale che fa queste cose da otto anni, ma di esserlo per il partito e per la grande tradizione della laicità. Hai capito, Parenzo? Liberale, repubblicana. Senti, ma anche nel centro-sinistra, però secondo me, caro Alessandro, per tornare ai temi sempre nostri, anche nel centro-sinistra c'è un sacco di gente che non fa coming out, non è che c'è solo nel centro-destra, come tu dici sempre. Ma se per questo ci sono i papisti anche lì, per questo secondo me è importante che il PD, che comunque attraverso Bersani ha detto sì a queste nostre richieste, sì, abbia accanto come due angeli custodi il PSI. Chi e c'è il, là? Fioroni, Fioroni, per carità, no? La Bindi, ha fatto sempre un po' di confusione, in fondo ci ha provato a fare i D, come erano un piccolo mostro. Ma come mai la Bindi ha queste posizioni? Una volta ha detto che non la rinuncia al sesso è stato un sacrificio. Ma questo è un problema dei cattolici con il sesso che è veramente inquietante. Secondo me è la conseguenza, nel caso di Don Marra, del celibato e della castità, che fa molto male. Secondo te la Bindi ha un problema col sesso? Una che dice una cosa del genere, sì, perché devi porre la rinuncia al sesso come un valore? Secondo me è un elemento gravissimo per l'equilibrio fisico e psichico delle persone. Per cui chi rinuncia al sesso come la Bindi è un po', può avere degli scompensi. Io li trovo molto disturbati coloro che rinunziano al sesso e addirittura poi lo proclamano come un valore. La natura vuole, quindi anche Dio, per chi ci crede, che noi abbiamo un'attività sessuale regolare che dia benefici sia fisici che psichici. Per cui chi dice come la Bindi rinuncio al sesso, insomma, probabilmente qualche problema ce l'ha dal punto di vista psicologico, dici tu, di tenuta. Ma altro, secondo me gli viene, perché secondo me è fondamentale che qualcuno la sera ci accarezzi, ci dia piacere, ci dia amore. Rinunciare a questo provoca, secondo me, dei gravi danni, e come Don Marra poi vede il diavolo ovunque. Ecco, ma a parte Don Marra, dico la Bindi, anche quando dice delle cose sugli omosessuali, eccetera, il fatto di rinunciare al sesso, questa cosa qua ha un suo peso. Immagino. Ha un suo peso, perché se lei dice che rinuncia al sesso e lo considera un valore positivo, vuol dire che, come purtroppo la dottrina cattolica insegna, il sesso non è un valore positivo ma è un valore negativo, e rinunziare sarebbe un fatto anch'esso positivo. È una stortura che non trova riscontro medico, psicologico, psicanalitico, sessuologico da nessuna parte. È proprio veramente un'aberrazione, mi dispiace dirglielo, mi dispiace per lei, perché non si vive bene così. Grazie Alessandro, a presto. Ciao, grazie a voi. Ciao. Francesco da Caltanissetta, fra poco un'altra grande sorpresa. Non abbiamo finito, cari ascoltatori, fino alle 21, restate incollati che facciamo un'altra intemerata. Francesco da Caltanissetta, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Questa storia della Lombardia mi ha caricato stasera, sono carico a pallettoni. Senta, intanto una piccola premessa, cioè mia moglie ha messo nei miei peggiori difetti una sera, una cena, quella di ascoltare troppo la Zanzara. Ho capito. Cioè, è una cosa che mi contesta ogni sera. Senta, io volevo intervenire su Bosetto. Però scusi, mi passi sua moglie un attimo. Non è qui, io sono fuori a lavorare. Lavorare se la cava. Meno male. Allora, volevo intervenire su Bosetto. Il problema non è il Bosetto della situazione, che si è stato tutta la sera attaccato. Bossetti si chiama, come piccoli bossi. Come piccoli bossi. Cioè invece di Bossini, Bossetti. Non è il problema del Bossetti, della situazione che si arrampica sui tecnicismi, sì, ma è rimborsabile perché lo prevede, non lo prevede. Il problema è che non ci devono stare i soldi nella politica, perché questi qua, fino a quando ci saranno i soldi, tutti questi soldi sono nella d'accordo politica, con lei, sono d'accordo sarà con lei. Sempre così, è l'unico modo per non starci i soldi nella politica, è che loro se ne vadano tutti a casa, perché loro non li toglieranno mai. Ma non se ne devono andare a casa, devono casa togliere tutti il finanziamento pubblico, se ne vanno a ma casa arriveranno solo, altri, no? Non che solo, certo. rivedere anche le loro retribuzioni, che non sono adeguate alle loro, a quello che fanno. Ma se cioè, ci fossero solo le retribuzioni, andrebbe pure bene, magari con qualche piccolo ritocco, per carità. Il problema è che oltre a queste retribuzioni, oltre bene, perché si aggiungono anche i contributi ai consiglieri regionali, ai gruppi, e vengono gestiti nel modo in cui stiamo vedendo, dal Lazio a fra poco alla Campania, perché scoppierà uno scandalo in Campania, e poi adesso in Lombardia, eccetera, eccetera, senza controlli. Ma i controlli chi? Ma scusi, lei pensa che loro saranno in grado non di ci può essere un controllo? Infatti io dico che siccome non ci può essere un controllo e siccome non si potrà mai avere una certezza su nulla, è meglio togliere tutto, affamare la bestia. Se uno vuole e loro non li toglieranno mai tutto, devono andarsene loro per togliere ma se tutto. Se ne vanno arrivano altri, che vuol dire? Qualcuno dovrà governare la regione, dire? No? Sì, ma certo che dovranno arrivare gli altri, ma è possibile che ci siano persone come Berlusconi e Gargamella, cioè Bersani, che stanno praticamente lì da una vita senza nessun tipo di ricambio generazionale? Vabbè, quello è un altro discorso. Andrea da Bergamo, buonasera. Sono anch'io completamente nauseato da questo Bossetto. Che Bossetti. Lei continua a dire che bisogna affamare la bestia, io dico che bisogna affamare le bestie, perché questi sono bestie che hanno, e me ne assumo la responsabilità, la faccia come il culo. Perché sentire uno che continua a dire io ci provo, io butto lì gli scontrini, se qualcuno mi dice che sono rimborsabili, io me li faccio rimborsare, come quelli che cercano di fare i furbi dalla mattina alla sera, cercando di entrare, che ne so, a prendere l'autobus senza il biglietto, ci provano. E questo è l'esempio dei nostri grandissimi governanti. Questa qua è gentaglia che va affamata dalla mattina alla sera, ma affamata vera. Questo si permette anche di dire a lei, se dovesse portare nella sua azienda fuori dei clienti, il suo titolare non le direbbe di presentare il rimborso spese. Ma nel privato c'è una misura precisissima tra quello che un imprenditore può spendere per anche attività promozionale e il ritorno che ne ha. Eccoci qui, 20:47, attenzione, attenzione. Sulla testa e sulle braccia, sulle spalle, sulla faccia, sulle mani e le ginocchia. Pronto? Pronto, buonasera. Sì. Sono Cruciani, toscani? Sì, buonasera. Sono Giuseppe Cruciani, Radio 24. Com'è? Sono Cruciani di Radio 24, la Zanzara, la disturbo? No, mi dica. Senta, ma è vero che lei avrebbe utilizzato i soldi dei rimborsi del gruppo consiliare per Gratta e Vinci, Lecca Lecca, ciambelle, gelati, salsicce di Norimberga, ostriche, cartucce da caccia? Allora, sulle cartucce è successo un grosso malinteso. Un malinteso sulle cartucce, cioè? L'impiegata ha registrato questo scontrino che io non mi ricordavo neanche di avere, purtroppo pensate che fossero cartucce del toner. Io chiedo scusa per questa cosa e lo rimborserò lunedì mattina subito con 750 euro. Ah, cioè lei dice che l'impiegata quale? Cioè quella del gruppo? Sì. Cioè lei le ha passato uno scontrino che non doveva passarle? Io ho dato una serie di scontrini, loro li verificano, poi scartano quelli che non sono rimborsabili. Noi non abbiamo la carta di credito da spendere subito, portiamo gli scontrini e vengono rimborsati. E lei ha dato all'impiegata lo scontrino delle cartucce? Ne ho dati parecchi. Ne ha dati parecchi? Quello. Purtroppo c'era dentro anche quello, non l'ho visto, e chiedo scusa a tutti, purtroppo non sbaglio. Le ostriche? Mai mangiate in vita mia, non so dove venga questa voce. Non è vero. E le salsicce di Norimberga? Sì, quelle le ho prese, ho mangiato il salsiccio, ho mangiato anche i lecca lecca, le caramelle. Beh, scusi un attimo, però al bar prendo quello che voglio, non bevo. Ho capito, perché devo pagare io però, scusi, caro Toscani? Scusi? Perché devo pagare io i lecca lecca, le ciambelle, le salsicce di Norimberga? Semplicemente perché era consentito. Come era consentito? Era consentito che lei vada a pranzo e pago io? Nei miei rimborsi, sì. Cioè, una cosa è che lei va a pranzo per fare attività politica, già può essere discutibile. No, guarda, io queste cose le ho tutte quando facevo attività politica, a parte le cartucce che, ripeto, sì, chiedo scusa a tutti per questo malinteso, e per le ostriche mai mangiate in vita mia, non so. Però no, lei va a pranzo anche da solo, mangia le salsicce, le prende in lecca lecca, le ciambelle, è considerata attività politica? Se sono nei giorni in cui sto facendo attività politica, sì. Cioè il rimborso per quando lei va a pranzo... Non è che li ho spesi, mi sono stati rimborsati. Sì, no, ho capito, sono stati rimborsati. Li ha controllati, li ha verificati e ha deciso che andavano rimborsati. Cioè non era nemmeno attività politica, erano suoi pranzi personali? No, era attività politica, e... pranzi personali. Lecca lecca. Beh, scusi, lecca lecca, attività politica, cioè non ho capito, scusi però... Io quando vado al bar prendo una serie di cose, prendo le caramelle, prendo il lecca lecca, prendo il cioccolato. Ma lei parla di politica al bar? Sì, certo. Ma lei ci va anche da solo al bar alcune volte? No, se vado alla buvette mentre ci sono i consigli, vado anche al bar, non ci aspetto il treno, mentre torno a Milano vado al bar. Ho capito, però quella non è attività politica, lei ha uno stipendio per questo, ha dei benefit, cioè non è che posso pagare io il fatto che lei va al bar e se magna le calecca o le ciambelle o le salsicce, scusi però, se io lo dico con tutto il rispetto. Salsicce non in merga però, posso anche condividere, ma se è consentito dalla legge... Bisogna vedere, perché qui ci sono le contestazioni. Però, scusi, il gratta e vinci è vero? No, non vengono rimborsati. Lo scontrino, io la mattina vado a prendere il treno per andare al lavoro, prendo il giornale, e mezzo cappuccino e brioche gratta e vinci, nello scontrino c'è tutto dentro, ma non sono mai stati rimborsati. Sono scritti nello scontrino, ma non sono mai stati rimborsati. Ho capito. Cioè lei prende gratta e vinci, ma in realtà il gratta e vinci non è mai stato rimborsato. C'è un errore, no, da questo punto di vista. Non è mai stato rimborsato. Ma non ho capito la storia dei lecca-lecca. Io ripeto, l'unica cosa che mi sento di chiedere veramente scusa per questa questione delle cartucce, che non mi ero accorto, chiedo scusa. Purtroppo è stato inteso da parte dell'impiegata che fossero cartucce del toner. Erano cartucce del toner, invece erano cartucce da caccia. Erano cartucce vere, perché io vado a caccia, chiedo scusa lunedì, verserò subito questi 752 euro. Il resto, lei dice, compreso il lecca-lecca e compreso le ciambelle, sono spese per attività politica? Sono spese che io ho esercitato, che ho fatto mentre esercitavo la mia attività politica. Cioè, lei prende un lecca-lecca, Parenzo, che gli vuoi chiedere? Ma scusi, voglio capire questo, amico mio, lo dico veramente con affetto, la salsiccia di Norimberga. Vabbè, quello vai al ristorante e ti mangi la salsiccia. Ma con tutte le salsicce che ci sono, proprio quella di Norimberga, ma comunque non importa, la salsiccia di Norimberga e il lecca-lecca e i giornali della domenica quando lei è a casa con sua moglie. No, quello non l'ha detto, i giornali della domenica. Ma non lo so, ma dove si può comprare con i soldacci suoi? Porca miseria ladra! Hai ragione, ma non l'ho decisa io questa cosa. Ma con pacatezza lo chiedo, perché vado ai matti la salsiccia di Norimberga. C'hai anche la macchia frocio, magari compra. Se mi è consentito chiederne il rimborso, non l'ho deciso io. Però, scusi, però... lei io mi, non lei ho una carta di credito che mi dicono... Tu hai 1.000 euro al mese, spendi quello che, sì, che ritieni. Ma non le basta lo stipendio, scusi, lo stipendio da consigliere regionale più vari benefit, non le bastano anche per pagarsi il bar o qualche pranzetto ogni tanto davanti alla regione o quando prende il treno? Sì, ma sa quante cose non registro? Cioè, si potrebbe rimborsare? Perché lei pensa che i 1.000 euro al mese di rimborso siano quelli che spendiamo effettivamente. Cioè, lei dice che spende molto di più? Ne spendono anche 4-5. Cioè, in realtà i soldi non le bastano quasi. Certo che bastano e avanzano. Ah, ho capito. Però io voglio capire. La legge non l'ha fatta lei. Però ho capito, sì, certo, non l'ha fatta lei. Però non è che con questa cantilena uno può cavarsela così facilmente, per carità. Allora cosa facciamo? No, io voglio dire, quando uno va da solo al bar, lei non è nemmeno attività politica in realtà. Lei va al bar, lei mi dice che prende un lecca-lecca. Ma se vado al bar durante la pausa di un consiglio, di una commissione o mentre vado in viaggio. E prende il lecca-lecca perché. Ho capito, ma lei. Ma ho capito, ma allora tutto è attività politica, tutto potrebbe essere rimborsato. Fino a un massimo di 1.000 euro. Fino a massimo di 1.000 euro. Ma qualunque cosa. Cioè, qualunque cosa uno dice, siccome sto facendo. Uno fa sempre politica, da lunedì alla domenica. No, ripeto, quello delle cartucce è un grave errore. Ripeto, vabbè, le cartucce. A me sembra più grave la salsiccia. Scusi, però qui ci sono qui c'è pizzette, lemonsoda, cannoli, ciambelle, torta. Per capirci, gli alimenti, le pizze, no, quando vai. Frutta e ortaggi, lei, frutta e ortaggi, è vero che si è fatto rimborsare anche frutta e ortaggi o no? Frutta e ortaggi. Sì, così risulta dalle notizie. Io ho l'avviso di garanzia qui davanti, ma anche le ostiche non risultano. Ostiche non risultano. Però scusi, non è che noi abbiamo avuto un sospetto oggi, perché siamo maligni. Siccome lei ha una birreria, o sbaglio? No, guardi, la ci perda, perché la birreria e di mia moglie, sono 300 posti con un rimborso di un chilo di farina, sarebbe più niente. Va bene, benissimo, benissimo. Siamo a posto, grazie. Va bene. Grazie, grazie Toscani molto gentile, grazie. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ieri ho detto che sono stato coccolato e ho detto la pura verità. Sono tutti amici, e mentre invece ho letto che sarei stato addirittura processato. Non c'è stato niente di più falso. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Che cazzo di domande fai? Radio 24. La passione si sente.